A volte ti evito, la solitudine è cibo per lo spirito. Col fatto che io non vi sento lievito, come la torta della nonna Washington, ma c'è sempre un pericolo. L'omologazione dell'anticonformismo, catenine, piercing, tatuaggi di Fred Flintstone. Tutti in pizzeria per mangiare un fritto misto. Scusa, ma stasera resto a casa insieme a Wilson. Tutto molto bello, ma io me ne sto meglio a casa. Tutto molto bello, ma io me ne sto meglio a casa. Grazie a Wilson, sono mesi che non si parla di crisi. Tanto Wilson, se ha un problema, è una palla, si dimena, è il mio orgoglio. E poi la pompo quando voglio. Quando voglio. L'omologazione dell'anticonformismo, catenine, piercing, tatuaggi di Fred Flintstone. Tutti in pizzeria per mangiare un fritto misto. Scusa, ma stasera resto a casa insieme a Wilson. Tutto molto bello, ma io me ne sto meglio a casa. Tutto molto bello, ma io me ne sto meglio a casa. L'omologazione dell'anticonformismo, catenine, piercing, tatuaggi di Fred Flintstone. Tutti in pizzeria per mangiare un fritto misto. Scusa, ma stasera resto a casa insieme a Wilson. Tutto molto bello, ma io me ne sto meglio a casa. Tutto molto bello, ma io me ne sto meglio a casa.